Fabbrica 2.4. Viaggio nell'industria che cambia, di Filippo Astone. Buongiorno, lo sapevate che l'Industry 4.0 oppure Fabbrica Digitale favorisce il reshoring? Reshoring vuol dire produzioni che un tempo erano state delocalizzate e che adesso tornano nel paese d'origine. Vuol dire che quelli che avevano portato le fabbriche in Romania, in Cina, in India o Dio sa dove, le riportano in Italia. Peraltro avevamo fatto già una puntata di Fabbrica 2.4 dalla quale emergeva che l'Italia, dopo gli Stati Uniti, è il secondo paese al mondo per numero di casi di reshoring. Ma veniamo all'argomento. L'argomento è che se la fabbrica è digitalizzata vuol dire che ci sono dei chip o dei sensori su ogni componente, vuol dire che è tutto just in time, vuol dire che non ci sono magazzini, vuol dire che è tutto su misura e quindi vuol dire che la produzione deve essere il più vicino possibile là dove i prodotti vengono pensati e progettati. E quindi ciò favorisce il fatto che le fabbriche tornano qui. Ma perché vi parlo di questo? Ve ne parlo perché si è appena concluso il World Manufacturing Forum, che è la più grande manifestazione europea dedicata all'approfondimento di tematiche manifatturiere. Era a Barcellona, c'erano un sacco di ministri, commissari europei, super esperti, imprenditori, un summit del massimo livello. E nell'ambito del World Manufacturing Forum, che è finito lo scorso 4 maggio, il fatto Fabbrica 4.0 uguale reshoring più facile era una delle conclusioni di maggiore evidenza. Abbiamo qui a raccontarcelo il professor Marco Teich, buongiorno. Buongiorno. Che è uno dei massimi esperti di manifatturiero in Italia, ordinario al Politecnico di Milano, ed è l'organizzatore del World Manufacturing Forum che si è appena concluso. Allora ci dica, come mai la Fabbrica 4.0 favorisce il reshoring? Il fatto di poter avere a disposizione informazioni in tempo reale, associato al fatto che oggi sempre di più i nostri clienti vogliono avere i prodotti con un grado di personalizzazione molto elevato, li vogliono avere subito, non consente più di avere la fabbrica in Cina, di aspettare 2 mesi perché il prodotto sia realizzato, la nave lo porti vicino a noi. Questo non è più possibile. Allora, se qualche prima il costo diventava un elemento fondamentale, adesso il livello di personalizzazione è quello che i nostri clienti nel mercato vuole, e quindi non abbiamo più tempo di aspettare 2 mesi. La fabbrica 4.0 diventa un elemento fondamentale perché, abbattendo i costi di produzione, ci consente a questo punto di tornare noi paesi ad alto costo. Perché uno non pensa che fabbrica 4.0 vuol dire non avere magazzino. E questo fa sì che il costo già viene abbattuto. Non avere magazzino vuol dire che io il tempo di progettazione, che magari prima poteva essere per un veicolo di 3-4 anni, adesso è diventato di 12 mesi, e quindi noi abbiamo la possibilità di tornare paesi ad alto costo del lavoro competitivi rispetto a quello che sono i paesi invece del Far East. E quindi noi dobbiamo usare queste tecnologie per tornare a produrre nei nostri paesi. Ovviamente il reshoring è comunque un fenomeno limitato, perché ci sono una serie di produzioni che devono essere vicine a dove sono vendute. Per esempio, mi dicevano della Prysmian, che fa cavi per l'energia e le telecomunicazioni: se li vendono in India devono farli in India, se li vendono in Australia devono farli in Australia. Non c'è reshoring che tenga in quei casi. Assolutamente, però proviamo a immaginare i componenti del settore dell'automotive, che oggi magari produciamo in paesi a basso costo della manodopera. Possiamo portarli e torniamo ad avere parti significative della catena del valore vicino a poi dove avviene l'assemblaggio, quindi vicino al mercato. E questo vuol dire evidentemente tornare ad essere competitivi. Certamente, ma secondo lei in generale questo fenomeno del reshoring, diamo anche una speranza ai nostri ascoltatori, è destinato in Italia a essere importante? C'è la speranza che tornino fabbriche, che ci siano nuovi posti di lavoro? Assolutamente. Non è solo un vantaggio per il consumatore, ma diventa anche un vantaggio poi in termini di creazione di posti di lavoro. E questo è un fenomeno che è iniziato su settori con prodotti molto costosi. Pensiamo al lusso, dove magari il Made in Italy è l'elemento fondamentale, ma si sta allargando invece a settori della meccanica. Che sono certamente quelli poi dobbiamo importanti. Interromperci perché ci sono gli avvisi sul traffico e la pubblicità. Restate con noi. Fabbrica 2.4. Rieccoci in linea, stavamo parlando col professor Marco Taisch, che è uno dei massimi esperti italiani di manifatturiero. Lui ha coordinato World Manufacturing Forum, che si è chiuso lo scorso 4 maggio a Barcellona, dal quale è emerso come la fabbrica 4.0 favorisca il reshoring, cioè il rimpatrio delle produzioni. Ecco, ma insomma, allora tutta questa automazione spinta che c'è nelle fabbriche con la digitalizzazione, la robotica, l'automazione, non è poi così tetra come la dipingono, cioè non è che poi saremmo tutti a casa a vivere di salario minimo dato dallo Stato perché non ci sarà più lavoro? Assolutamente no, noi dobbiamo comprendere che stiamo passando da un modello in cui avevamo l'automazione industriale, cioè avevamo i robot sostituivano gli operatori sulle linee e quindi ovviamente perdevamo posti di lavoro, a un'automazione che è invece diversa, un'automazione cognitiva, cioè noi andiamo a dare, grazie a un device, basta montare un telefono cellulare sul polso di un operatore, gli forniamo informazioni in tempo reale su quello che lui deve fare, la sua abilità di svolgere quel compito diventerà migliore e quindi quell'operatore diventerà più competitivo nello svolgere quel task. A questo punto non mi conviene più sostituirlo con un robot, mi conviene tenerlo, perché poi lui ha know-how, ha esperienza. Sì, però ci vorranno meno operatori. Ci vorranno meno operatori, ma è anche vero che parte della creazione del valore si sposterà poi sulla progettazione di nuovi prodotti, perché abbiamo parlato prima di personalizzazione e quindi la parte ingegneristica di design aumenterà in proporzione rispetto alla parte di produzione. Un altro tema è il digital divide delle PMI. Le piccole e medie imprese non sono abbastanza digitalizzate, non sono abbastanza connesse, non sono abituate a sistematizzare i loro dati in modo da rendere possibile la connessione, perché poi alle volte, secondo me, uno pensa al tema della connessione del digital come un tema esclusivamente tecnico. Non è vero, è soprattutto un tema organizzativo e cognitivo, perché devi darti un'organizzazione e soprattutto classificare quello che fai e quello che sai. Ecco, questo digital divide pare che sia molto importante, no? È un rischio che le piccole e medie imprese italiane corrono. Direi di più, non è solo la questione di organizzazione, è la questione che molti imprenditori oggi non sono ancora consapevoli di correre questo rischio. E quindi è ancora peggio, perché non hanno la consapevolezza di questo rischio. Le grandi imprese hanno know-how, le grandi imprese hanno investimenti disponibili, sono in grado, lo stanno già facendo, di implementare la fabbrica 4.0. Le piccole, se non sanno neanche di cosa stiamo parlando, è chiaro che non hanno neanche la consapevolezza. Io credo che un ruolo che noi abbiamo tutti insieme, le istituzioni, l'università, la stampa, sia esattamente quello di fare informazione su questi temi e di far capire che in realtà gli investimenti per implementare la fabbrica 4.0 non sono così grandi come erano quelli a cui abbiamo costretto i nostri imprenditori. Secondo me il termine PMI ormai è fuorviante, perché una cosa sono le medie e una cosa sono le piccole. Le piccole sono un'altra galassia. E le piccole italiane ci sono di due tipi, ci sono quelli di imprenditori geniali che hanno un prodotto forte, però non va dimenticato che in Italia una vastissima porzione delle piccole imprese non è competitiva, vive di evasione fiscale, pagare poco i fornitori, pagare a 300 giorni, a crocchi con la politica, favoritismi, dimenticanze, abitudini a fornire quello perché è l'amico, il cugino e lo zio. Almeno metà di queste piccole imprese italiane non sono i santi che si vuole dire, ma sono un mondo un po' così. Ma io da questo punto di vista sono molto, molto pragmatico. Tutti i sistemi economici e industriali sono soggetti a evoluzione. Evoluzione vuol dire selezione, vuol dire che chi è capace di interpretare o addirittura anticipare quelli che sono i trend del futuro è giusto che in qualche modo sopravviva. Chi non ha questo know-how, queste competenze o addirittura, come dicevo prima, questa consapevolezza, in realtà non favorisce la competitività dell'intero sistema, e quindi la selezione naturale da questo punto di vista è corretta. Il problema è che noi dobbiamo metterli nelle condizioni di sopravvivere. Se noi abbiamo delle zone del paese che non sono connesse perché non arriva la banda larga, e qui non è una colpa dell'imprenditore che non è sensibile, qui è una colpa evidentemente delle istituzioni che non sono in grado di rendere il sistema competitivo. Però il piano per la banda larga è stato fatto. Infatti il piano lo facciamo, dobbiamo implementarlo, perché altrimenti voglio dire, la connettività non esiste. Noi dobbiamo imparare a capire che le infrastrutture che una volta erano le strade, oggi sono la banda larga. Io non posso più, molte imprese di fatto gestiranno il loro business stando sedute in ufficio, indipendentemente da quale valle della nostra regione, del nostro paese si trovino. Quindi l'infrastruttura digitale diventa fondamentale per il business del futuro. Ecco, poi un altro punto, che è il terzo che lei mi diceva, è quella dei dati che diventano la materia prima del futuro, che si lega al punto 2. Esattamente. Noi dobbiamo immaginare che se una volta bastava avere risorse, materie prime, energia, un bel prodotto e questo era sufficiente, oggi non è più così. Un consumatore oggi vuole sapere in anticipo come sarà fatto il suo prodotto, vuole sapere in anticipo quando lo riceverà, vuole sapere come è stato prodotto. Quindi tutto il famoso tema dei big data. Il famoso tema dei big data. Ecco, che cosa sono i big data? Ce lo vuole spiegare? Faccia un po' il professore anche qui, ma più semplice. Ci proviamo. I big data vuol dire che oggi noi abbiamo la possibilità, grazie al fatto che i sensori costano molto poco, di raccogliere dati in maniera molto precisa, puntuale, in tempo reale su quello che sta succedendo in fabbrica. Questa è una ricchezza perché consente al responsabile di produzione, consente al progettista di migliorare il proprio prodotto. Ma non solo, il prodotto sarà connesso e quindi noi potremo sapere come l'utente lo utilizzerà, e queste saranno informazioni fondamentali per erogare servizi a più alto valore aggiunto per i nostri consumatori. E certo, perché se mettiamo chip e telefoni cellulari su ogni componente, in ogni dove, addirittura i chip nei vestiti, poi i chip trasmettono tutti questi dati, alla fine miliardi e miliardi di bit che dovranno essere usati. Quindi il problema non è poi andare a memorizzare i dati, il problema dei big data non è la memorizzazione, il problema dei big data è l'analisi, l'interpretazione, l'estrazione di informazioni, quelle importanti, per analizzare poi i trend, gli usi, i costumi, il modo in cui i consumatori utilizzeranno, per poi andare a fornire. E questo sarà fondamentale per le piccole, le medie, le grandi imprese che vorranno competere. Assolutamente, perché poi uno deve immaginare che la stessa relazione che una grande impresa ha con i suoi consumatori, la piccola l'avrà con la grande impresa, perché fanno parte della stessa value chain. Quindi il big data diventa poi l'elemento veramente di connessione, ma qui intendo non informatica, intendo di connessione organizzativa dell'intera supply chain, per poter poi diventare più competitivi e fornire quei prodotti personalizzati di cui dicevamo prima. Ecco, ma io vedo un rischio che si dimentichi la significatività dell'impresa, quella che il professor Carlo Bagnoli, che è un mio amico e un ospite frequente di queste trasmissioni, chiama impresa significante. Cioè l'impresa che sa dove vuole andare e sa quello che vuole, perché ha un prodotto importante e significativo da proporre sul mercato, l'azienda di proposta. Perché c'è tutta un po' questa propaganda che facciamo anche noi di Fabbrica 2.4, sull'Industria 4.0, sull'interconnessione e su tutti questi prerequisiti. Quindi andiamo da Cisco, andiamo da HP, andiamo da IBM, ci facciamo fare il sistema, partecipiamo ai seminari del professor Teich e siamo all'avanguardia. Poi però bisogna avere un prodotto da vendere che prescinde da questo. È chiaro che l'idea del prodotto vincente è, lasciatemi dire, del prodotto servizio, perché anche questa è un'evoluzione importante. Noi dobbiamo immaginare che i prodotti diventeranno una piattaforma per erogare dei servizi, quindi il consumatore sarà più interessato ad avere i servizi, ma i servizi bisogna avere la connettività. Il fatto è che le imprese in qualche modo devono comprendere che entreranno sempre di più a far parte di un ecosistema di imprese. Però poi se non hanno il prodotto significativo che precede i bisogni del mercato, si attaccano al tram. Ma non è una questione di prodotto, di servizio. Secondo me è questione di avere la capacità di rimanere all'interno di una value chain, di una catena, sì, di avere un ruolo all'interno di questa catena. Io magari non posso non necessariamente avere un prodotto, ma essere un bravo trasformatore di prodotti. Stanno nascendo, per esempio, tantissimi centri di servizi per l'additive manufacturing. Però io devo soprattutto sapere dove voglio andare. Ma questa è la strategia di un imprenditore, e secondo me è la dote fondamentale per essere degli imprenditori, se non la strategia non... Appunto, però tante volte quando si dibatte di queste cose anche di manifattura, si tende a concentrarsi su questi aspetti che sono le frontiere tecnologiche e a dimenticare che poi il quid è quello lì. La frontiera tecnologica, la tecnologia è un mezzo, questo non è il fine, non dobbiamo dimenticarci. Senta, abbiamo un minuto, ai ragazzi e genitori che sono in ascolto, visto che avremo un mondo interconnesso e dove la fabbrica sarà interconnessa e le fabbriche saranno di nuovo qui, che cosa gli conviene studiare? Se dico ingegneria, dico manufacturing, sono di parte. No, vabbè, ma ingegneria, che tipo di ingegneria? Beh, in realtà, questo è emerso anche al World Manufacturing Forum, tutte le scienze, le tecnologie, la matematica diventano poi necessariamente le discipline del futuro e sono quelle su quali giocheremo la competitività nel nostro paese. Quindi dobbiamo necessariamente... E ci saranno quindi più posti di lavoro ancora per gli ingegneri? Oggi non ci sono ci sono posti di lavoro che non sono coperti, perché non abbiamo sufficienti ingegneri, tecnici, e persone che hanno competenze di tipo scientifico. E quindi se uno vuole studiare e non far parte dell'esercito dei cocopro e dei disoccupati, deve andare in ingegneria al Politecnico. Deve andare in ingegneria al Politecnico. Sempre che passi l'esame di ammissione. Ma ci sono tante altre università in Italia che sono altrettanto brave. Se no c'è il trucco, brave. Uno fa il primo anno da un'altra parte, così se non passa l'esame di ammissione poi arriva al secondo. Sì, e... Questo potrebbe essere un trucco. Il problema è che al di là dell'università che si sceglie, il fatto è che bisogna studiare in Italia o in Europa ingegneria. Dobbiamo chiudere, il tempo è tiranno. Grazie al professor Taish. Grazie a voi. Arrivederci alla prossima puntata, sabato prossimo, ore 14.